prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Anche noi disabili. Quella di oggi è una puntata speciale che rientra nel nostro progetto, l'iniziativa di Radio 24, Anche noi disabili. Quella che vi raccontiamo in particolare è la storia di Filo Lolò, la storia di Alessia, che nasce con una grave disabilità, che porterà anche tanta musica nella sua famiglia, come racconta il padre Paolo Ghezzi nel libro Filo Lolò rema nell'aria. Quella di Alessia è dunque una storia che rivela aspetti meravigliosi e abbatte anche i tabù della disabilità, che non è solo fatica. Quando ti è nato un figlio, anzi una figlia, anzi lei, Alessia, e l'hai vista misera e arruffata e rossa in viso nell'incubatrice e adesso la pensi sotto i ferri dei professori con il camice verde a 100 km da dove la mamma l'ha messa al mondo, con poche ore di vita extrauterina e una confusa, straordinaria, imbarazzante prima visione del mondo, allora non puoi che fare il tifo per lei e consegnarla ai suoi distratti protettori celesti affinché dopo aver combinato quel pasticcio almeno non spezzino il filo che la lega a noi. La prima domanda, la classica domanda che ti avranno fatto mille persone, è: da cosa nasce l'esigenza di scrivere questo libro? L'esigenza nasce poco a poco. Noi ci abbiamo messo 28 anni, io e la coautrice, che poi mia moglie, la mamma di Alessia Filo Lolò, a deciderci, perché in realtà l'esigenza di interpretare nostra figlia è sempre stata presente sin dai primi anni, però aveva la forma di appunti sparsi, di note, di fogli volanti, diciamo, e solo dopo tutto questo tempo forse ci è nata l'esigenza di dire, di domandarci prima di tutto se aveva senso comunicare queste cose all'esterno, e ci siamo risposti di sì, sia per aiutare chi incontra Alessia nella vita di tutti i giorni, tipo gli operatori del suo centro, ma anche le persone qualsiasi, a capire il suo linguaggio, sia perché ci pareva giusto, con una storia così speciale, raccontarla in termini non pietistici, non autocommiseranti, ma come un'avventura, una scoperta quotidiana di strane, come dire, combinazioni di suoni e di parole che contraddistinguono un po' il mondo di Alessia. Che cos'ha Alessia? Sì, Alessia nasce con una malformazione cerebrale, sostanzialmente, tecnicamente un meningoencefalocele occipitale, che è una malformazione piuttosto rara, una cosiddetta malformazione del tubo neurale. Di fatto i neurochirurghi che la operano fin dalle primissime ore di vita ci dicono subito, questo era il 28 febbraio 87, che la bambina avrebbe avuto problemi cognitivi, avrebbe avuto problemi di deambulazione, avrebbe avuto grossi problemi di vista, e tutte queste cose le ha avute, diciamo. Quindi diciamo che dal punto di vista tecnico è una disabile grave, ma noi abbiamo imparato, insomma, convivendo con lei, che oltre a questa etichetta, insomma, lei aveva tutto un mondo, soprattutto derivato dal fatto che lei appunto usa il canale uditivo come fonte di conoscenza del mondo, ma anche di restituzione di se stessa al mondo, tutto un mondo da esplorare a livello di linguaggio, e questo è stato un po' il tentativo di questo libro. Tu racconti in questo libro proprio i momenti che hanno preceduto, insomma, l'operazione, la prima operazione fatta in fase neonatale di Alessia, e poi racconti anche una cosa che secondo me è una cosa che viene raccontata ormai sempre dai genitori che decidono di mettersi su questa, diciamo, ideale prima linea, no? Raccontando, scrivendo dei libri, ed è, che un po' hai detto anche adesso in questa risposta, ed è Alessia è stata anche una risorsa, perché poi grazie a lei abbiamo scoperto tutto un mondo meraviglioso. Quindi questo qui è un tema che spesso sta cominciando a venire fuori e che invece negli anni precedenti non c'era. C'era la disabilità vissuta solo come fatica. Sì, forse c'era un un peso del pregiudizio e anche della schematizzazione per cui appunto queste persone venivano rinchiuse in scatole, insomma, predeterminate, sì, non venivano, diciamo, analizzate più di tanto. Ecco, sì, il nostro tentativo è stato quello di capirla, questa bambina, poi ragazza e adesso giovane donna che resta però sempre un po' bambina, e quindi di come dire, approcciarla come una persona che aveva qualcosa da dire, che forse se era capitata al mondo aveva un senso che ci fosse, quindi che in qualche modo doveva parlare, e difatti lei per fortuna parla, interloquisce, interagisce, ha un rapporto con noi e con il mondo. In questo senso credo che per fortuna siamo capitati anche in un'epoca in cui appunto c'è più curiosità e c'è più apertura mentale nei confronti di questo tipo di disagi o di disabilità, e quindi c'è anche una minor dose di pregiudizio nell'approcciare queste situazioni. Anche se, ripeto, credo che ogni storia vada considerata a sé. Ecco, io sono un po' contro le generalizzazioni, e quindi disabilità è veramente un universo, un mondo. Dentro la disabilità ci sono veramente mille storie. La disabilità fisica, per esempio, è tutt'altra cosa che quella psichica, e ogni storia è una storia particolare. In questo senso non ci sentiamo dentro, diciamo, un flusso nuovo di testimonianze su queste storie, ma ci sentiamo soprattutto legati alla particolarità, alla peculiarità di Alessia, che effettivamente anche come tipo di problema suo iniziale, come tipo di risposte che ha dato, è piuttosto speciale e difficilmente omologabile con altre situazioni. Ecco, per quanto riguarda il tema della disabilità, tu ti sei speso anche molto nella partecipazione, nel far valere anche i diritti della disabilità e della risorsa sociale della disabilità stessa. Volevo chiederti a che punto siamo secondo te in Italia? Difficile generalizzare, noi parliamo della nostra esperienza, lei si è avuto un'ottima esperienza dal punto di vista dell'integrazione scolastica, perlomeno nelle prime diciamo scuole, quindi scuola elementare e scuole medie, e il problema è diventato un po' più complicato alla scuola superiore e soprattutto negli ultimi anni, dove, e questo, come dire, vale in Trentino come altre parti d'Italia, anche se il Trentino per fortuna, avendo un'autonomia scolastica provinciale, diciamo, ha potuto garantire delle maggiori risorse rispetto ad altre situazioni che non conosco bene ma che mi dicono essere più difficili. Dicevo però che anche qui, pur in una situazione relativamente felice, si sono sentiti tagli alle risorse pubbliche per quanto riguarda per esempio gli insegnanti di sostegno e gli assistenti, insomma, che aiutano queste persone a integrarsi bene con le classi. Quindi in questo senso io non ho fatto grandi battaglie, ma abbiamo, e lo raccontiamo anche questo nel libro, anche se è una parte del tutto marginale se vuoi, abbiamo, diciamo, provato a difendere gli spazi di Alessia e delle persone come lei dentro la scuola, con l'aiuto di alcuni insegnanti, ma scontrandoci un po' contro la burocrazia e il fatto che le risorse erano calate. Quindi in questo senso più che una battaglia, una difesa degli spazi che c'erano e che invece venivano costantemente ridotti negli ultimi anni. Però complessivamente devo dire che grazie anche alla qualità degli insegnanti di sostegno e in generale del sistema scolastico, perlomeno qui in provincia di Trento, la nostra esperienza è largamente positiva vista nel suo complesso. Filololò è una storia scritta con molta cura, con grande leggerezza, capace di toccare corde inaspettate nel lettore. Filololò è una storia vera che appare come un sogno musicale, una storia che continueremo a raccontarvi nel corso della seconda parte della trasmissione in onda tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. La prima volta. Quella di Filo Lolò, raccontata nel libro Filo Lolò rema nell'aria di Paolo Ghezzi, è la storia di Alessia, sua figlia. È la storia di una famiglia ed è soprattutto una lettura che potrebbe fare bene a chiunque decida di intraprenderla. All'interno troverete dolore, paura, angoscia, perché Ghezzi non risparmia nulla a se stesso e al lettore, ma lo fa con un garbo meraviglioso. E poi, superato quel passo, sarete davanti alla bellezza, come in certe gite di montagna. Bellezza mista a fatica, che a volte toglie anche il fiato. 200 pagine di libro in cui emergono e scrivono tutti i personaggi di questa storia. Personaggi che sono la famiglia di Filo Lolò, alias Alessia. C'è Samuele, il fratello minore, musicista, ad accompagnare Alessia, e c'è tantissima musica in questo libro bellissimo. Un'altra domanda che volevo farti e che riguarda il libro è invece collegata alla figura del fratello. Ecco, Samuele viene 8 anni dopo di Alessia e tra l'altro, vabbè, noi accenniamo anche al fatto che prima di lui ci sono stati anche dei tentativi andati male, quindi ci sono stati degli aborti spontanei, eccetera, e ci abbia messo anche un po' a elaborare, diciamo, la nascita di Alessia prima di decidere di avventurarci in un altro figlio. Per fortuna è arrivato 8 anni dopo, e quindi Samuele, che adesso fa il musicista, nel senso che oltre ad avere un gruppo, ma studia proprio al conservatorio, all'Accademia Jazz in particolare, e suona il flauto, ma suona anche il sassofono, canta in questo suo gruppo, suona l'armonica, è stato sempre un compagno di Alessia da quando, insomma, è arrivato, e c'è stato sempre un bel rapporto fra di loro, testimoniato anche dal fatto che nel libro mettiamo, insomma, due suoi piccoli racconti, testimonianze in cui lui dice che, tra l'altro, una cosa simpatica, che il corpo di Alessia, lo dice da ragazzino, è probabilmente formato invece che dall'80% di acqua, come tutti i suoi coetanei, dall'80% di musica. In questo senso c'è un canale comunicativo aperto fra i due, e anche una certa complicità. Lei lo nomina spesso, lo evoca spesso anche quando non c'è, insomma adesso più spesso non c'è a casa, ma è sempre, come dire, una presenza che aleggia nell'aria. E questo loro rapporto ha aiutato in qualche modo anche voi anche a risolvere certi nodi, certe cose che probabilmente magari restavano un po' lì, cioè c'è stata leggerezza, insomma, ha portato leggerezza. Sì, ha sicuramente aiutato. Beh, sai, se noi restavamo genitori monofiglia, cioè con una figlia solo come Alessia, probabilmente anche il nostro, come dire, modo di guardare il mondo sarebbe stato diverso. Per fortuna è arrivato Samuele, che ha, come dire, costituito una, se vuoi, una certa normalità, no? Dopo l'eccezionalità della situazione di Alessia. La combinazione di questi due figli, di questi due fattori, sicuramente da una parte ci ha dato una prospettiva più, tra virgolette, normale o meno, diciamo, esasperata di certe cose, ma anche, come dicevi tu giustamente, il loro rapporto ci ha aiutato ad essere forse un po' più leggeri, anche se va detto che secondo noi e secondo me è giusto, come dire, non caricare assolutamente, sì, il, questo lo dicono ovviamente anche gli psicologi, il fratello, diciamo, che si trova ad avere una sorella o un fratello, insomma, con una disabilità molto particolare, non va caricato della responsabilità e del peso del rapporto, perché non sarebbe giusto, perché ha diritto a un'infanzia, un'adolescenza, una giovinezza assolutamente normali e più possibile felici, anche se indubbiamente dal punto di vista psicologico noi non sapremo mai quanto avrà pesato, insomma, questa compagnia. Però, come dicevi giustamente, siamo riusciti a trovare il registro della leggerezza, quindi è stato più un'avventura, diciamo, divertente che un'avventura triste. Un'ultima domanda volevo farti rispetto al libro, cioè nel momento in cui l'hai pubblicato, quanto sono cambiate anche le tue relazioni, cioè quanto serve mettersi a nudo? Dunque, allora, prima di tutto serve a te stesso, perché forse ti rendi conto che per la prima volta, io faccio, nella vita faccio il giornalista, racconto di solito le storie degli altri, non ho mai raccontato in prima persona le mie storie, se non in maniera del tutto allusiva. Per una volta farlo ti dà la percezione di quanto sia anche faticoso questo mettersi a nudo, di quanto sia anche in, tra virgolette, imbarazzante. Io in fondo racconto delle cose che solo quando ho visto il libro pubblicato mi sono reso conto che adesso possono essere lette potenzialmente da tutti, e quindi anche con un certo imbarazzo, se vuoi, aver rivelato delle cose un po' intime, un po' private. Però la reazione di queste prime settimane dall'uscita del libro è molto bella, perché molti ci ringraziano di averlo scritto e ci ringraziano di aver fatto capire loro qual è il percorso e anche il linguaggio di Alessia, e quindi, e c'è anche apprezzamento per il tono che abbiamo scelto, per questa scrittura che vuole essere lieve, vuole essere tendenzialmente musicale, come musicale è il mondo di Alessia, e quindi ci piace che sia stato colto, dopo una lettura superficiale che potrebbe catalogare il libro fra un'ennesima storia di disabilità, colto un po' invece il carattere molto specifico di questo libro, che è proprio un'avventura quasi di decodificazione artistica del mondo di Alessia barra Filo Lolò. Filo Lolò è Alessia, oggi ha 28 anni, è una ragazza che, come scrive il padre Paolo Ghezzi, non potrà godersi un sacco di cose meravigliose della vita, una lista, quella che fa il padre, a tratti dolce e straziante. Non potrà sciare, cadere con la faccia nella neve fredda, non potrà fumare di nascosto la prima sigaretta, non potrà fare l'amore. Però Filo Lolò non è solo ciò che non è. Ciò che non si può fare, Alessia, è soprattutto il contrario, è ciò che ha dato agli altri tre membri di questa bellissima famiglia e della comunità in cui vive. Una famiglia, quella di Alessia, che ha deciso di mettersi a nudo, raccontarsi anche per dare una mano ad altri, soprattutto a quelli che non hanno un figlio disabile. La prima volta termina qui. Venite a trovarci sul sito di Radio 24 oppure radio24-laprimavolta, il nostro indirizzo su Facebook, anche per riascoltare le puntate. Buonanotte e buon inizio di settimana a tutti da Cristina Carpinelli. Ti ma perdo niente, ma te penso cu. Eu sou bem caminho, mão. Um pote ao largo do. É som que a faccio. As tu baule da maina. É som que a Ei, camisa de velho, due coverte o mandolin, e cama de legno di. E in te na beretta negra, a te foto da. Fantina Peppo e Bajan con Zena Chate boca e naftalina na na na. Thank you.